in mostra la rubrica Regola d'arte, che continua con queste biografie in sala espositiva. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Giacomo Matteotti, ritorniamo per questa settimana con un altro anniversario, quello della scomparsa di Enrico Berlinguer. I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer al Museo Civico Archeologico in Via dell'Archiginnasio 2. Ricordo, l'ingresso è gratuito e aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, tranne il martedì. Questa figura carismatica, questa figura pacata, ma che sapeva dare le parole giuste, i luoghi e le parole, infatti, le parole giuste al momento giusto. Seppur giovanissimo, lo ricordo nei tam tam, nei ping pong, nelle tribune politiche, nonostante la giovane età, ne restai da subito, per così dire, coinvolto, se vogliamo anche affascinato, da questo leader politico che aveva una marcia in più, decisamente una figura, seppur anche restando in certi aspetti in maniera, come può essere poco più che un bambino, un preadolescente, un adolescente, anche se vogliamo in maniera di sguardo critico, indubbiamente una struttura e una statura veramente molto molto elevata. Sarà fino al 25 agosto l'esposizione, intanto do qualche dato logistico anche per questa mostra. Beh, la mia passione mi portava sin dall'età di 8-9 anni a, pensate, collezionare i dépliant che arrivavano per posta sui programmi politici in vista delle elezioni, che fossero politiche, amministrative, insomma tutte le particolarità delle elezioni degli anni 70. Da bambino, infatti, i miei genitori erano molto preoccupati perché io raccoglievo tutti i dépliant, studiavo i loghi, le figure, le immagini, i nomi di questi uomini politici, e ne ho un ricordo assolutamente molto vivo, molto presente. Beh, certo che quando si è appassionati di politica, soprattutto in un contesto tale, la mia simpatia inizialmente andò subito a questa immagine, a questa figura, a questo leader politico, come ho detto, che sapeva immediatamente dare una risposta giusta, che sapeva dialogare, che sapeva condurre, la caratteristica del leader, pur facendolo con grande pacatezza e con grande lucidità. È stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento, segretario del Partito Comunista Italiano dal 72 all'84, quindi al momento della sua scomparsa avevo 15 anni, e prima ancora militante e dirigente del partito, leader di rara caratura morale, radicato nel paese reale. Stimatissimo, ecco un altro aspetto, stimatissimo dai suoi oppositori, e capace di una visione politica moderna e anche molto lungimirante. L'esposizione, che è al Museo Civico Archeologico in Via dell'Archiginnasio 2 a Bologna, ne abbiamo avuto modo parlando con Gregorio Sorgonà, che è co-curatore di una esposizione itinerante perché è già stata presente in altre città. Grazie a Rachele Copparoni ne abbiamo avuto un'anticipazione per quanto riguarda la presentazione ufficiale che si è tenuta qualche giorno fa. Allora, per approfondimento, ne sentiamo subito le sue parole nel dialogo con Gregorio Sorgonà, co-curatore dell'esposizione dedicata ad Enrico Berlinguer, i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer. Bene, la faccio presentare innanzitutto. Sì, sono Gregorio Sorgonà, professione ricercatore presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Negli anni passati, 2022-2023, grosso modo, ho lavorato come curatore di questa mostra, che è stata esposta per la prima volta a Roma a partire dall'autunno del 2023, dal dicembre del 2023 fino al febbraio del 2024. Una mostra che ha riscosso un

I luoghi è infatti così non soltanto per i luoghi che noi abbiamo ricostruito e mappato attraverso la mostra, è un Berlinguer per l'appunto italiano e internazionale, come dimostrano le mappe, le due mappe in particolare, dedicata una alla violenza politica nell'Italia degli anni 60, dal 69 all'84, un Berlinguer mondiale che invece è raffigurato in quella mappa che indica i viaggi all'estero e le delegazioni che Berlinguer riceve, ed è un Berlinguer attraverso i suoi documenti, attraverso il suo archivio, attraverso le fotografie, restituita nella sua stretta rete di relazioni che aveva con tutto il territorio italiano. Le parole di Berlinguer sono le parole di Berlinguer che si ritrovano sempre nei suoi testi manoscritti o dattiloscritti, che sono largamente esposti in mostra, e che si ritrovano negli audio e nei video che accompagnano i visitatori in questa mostra. Ironia, satira, il più grande imitatore di tutti i tempi, non so se i più giovani lo ricordano, comunque per me è stato Alighiero Noschese, per me è stato il più grande imitatore di tutti i tempi. Lui giustamente, pensate la signorilità e l'accettazione da parte dell'intrattenimento e da parte anche del politico, tra virgolette vittima, che poi vittima non era assolutamente, anzi tutt'altro. Pensate che i politici chiedevano di essere imitati da Alighiero Noschese e lui, prima di farlo, chiedeva il permesso di poter eseguire questo motivo di intrattenimento, no? E Enrico Berlinguer disse: no, io ci tengo, io ci conto, io speravo che il personaggio Berlinguer fosse imitato in maniera caricaturale, perché nella caricatura vengono esaltati i difetti, no? Magari ascoltando avrò modo di sorridere e nello stesso tempo di migliorare. È tutt'altra tempra rispetto a quello che viviamo nella modalità di censura ai giorni nostri, e anche nella proposta dal punto di vista dell'intrattenimento, che è solo spettacolarizzazione, basta. Certo, per quel poco che può importare, ho avuto anche motivi di critica, autocritica per questi percorsi, ci mancherebbe, anzi è una caratteristica indispensabile per quanto riguarda quella che io definisco una vera sinistra. Comunque, restando e proponendo questa esposizione in mostra, che sarà fino al 25 agosto 2024, già aperta ovviamente, I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, l'ingresso è gratuito, al Museo Civico Archeologico in via dell'Archiginnasio. Guarda caso, questo brano si chiama Transito, è Bonobo, da uno dei suoi ultimi lavori per Ninja Tune Record. Andiamo in pubblicità, poi anche noi ci mettiamo in viaggio, andiamo verso il mare, andiamo in quel di Rimini, a tra poco.